Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. A proposito di calcio che non si ferma mai, ieri sera ha giocato l'Udinese, impegno di Europa League, stasera toccherà Lazio, domani torna già il campionato con l'anticipo Genoa-Milan di venerdì. Perché l'anticipo Genoa-Milan di venerdì? Sinceramente un minimo di fatica a capirlo si fa. Perché? Perché il martedì il Milan è impegnato in Coppa effettivamente. La società ha la facoltà di chiedere un anticipo, lo avrà chiesto, ma insomma martedì si gioca Milan-Vittoria, avessi detto, no? Con rossoneri già qualificati, già secondi comunque nel girone dopo il confronto col Barcellona, e quindi la sensazione è che non sia tanto il Milan ad aver chiesto quanto quanto la solita combinazione Lega Pay TV, no? per fare in maniera che ci fosse questa saldatura di, mi pare, 34 serate consecutive con calcio in diretta TV in prima serata, per l'appunto. Comunque Genoa-Milan è l'anticipo di un fine settimana che poi continua il sabato sera con Napoli-Lecce e Inter-Udinese in contemporanea, che prosegue ulteriormente domenica con Catania-Cagliari a pranzo e Parma-Palermo a cena, mentre lunedì sera, così giusto per gradire, c'è il posticipo Lazio-Novara, Lazio-Novara, in attesa di Milan-Vittoria il martedì, e poi naturalmente il mercoledì c'è la partita chiave del Napoli a Villarreal. L'Inter gioca l'ultima pacifica non, senza più obiettivi con il CSKA, eccetera eccetera. Comunque l'Udinese a Rennes se l'è cavata, e quindi sentiamo subito il commento di Guidolin. Beh, io non so cosa ne pensate voi, ma a me questo girone mi sembra bello tosto, perlomeno è tosto per l'Udinese, perché magari per il Barça o per il Milan lo sarebbe molto di meno, ma noi che siamo l'Udinese lo troviamo bello tosto. E quindi adesso sì, siamo, diciamo così, la qualificazione è alla portata, ma stavo pensando quale termine usare, perché nello sport essere alla portata o essere quasi, secondo me, meglio non dire e fare. Secondo me abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto le opportunità per andare in vantaggio, abbiamo anche sofferto perché poi il Rennes ha provato a vincere questa partita che poteva riaprire anche per loro i giochi, ma direi che abbiamo provato a vincere, non ce l'abbiamo fatta, ma comunque abbiamo fatto una buona gara. Stasera, dicevo, tocca alla Lazio. L'Udinese può accontentarsi di un pareggio in casa nell'ultimo turno contro il Celtic di Glasgow, quindi un risultato ampiamente alla sua portata. Stasera tocca alla Lazio e sentiamo dunque la vigilia di Reia. Questa è una gara sicuramente da vincere. Per quanto riguarda Cissé, mi sembra che stia in buona condizione, partirà dall'inizio, cercherò di mettere una squadra adatta per poter fare bene, per poter fare la prestazione di ottima intensità. Loro sono carichi sicuramente, abbiamo visto anche il valore di questa compagine che ci ha fatto soffrire anche a Roma. I ragazzi conoscono già il valore di questa squadra, pertanto ne abbiamo già parlato da un paio di giorni, perché noi ci teniamo molto a fare bene e possibilmente passare il turno. Molti risultati sorprendenti ieri sera nel turno di Europa League, ma il più imprevedibile è arrivato invece in Coppa di Lega in Inghilterra, dove il Manchester United, che peraltro schierava quasi per intero le seconde linee, ha perso in casa Old Trafford dal Crystal Palace ed è quindi stato eliminato. Ha perso ai supplementari, nonostante un rigore firmato da Makeda, che quindi è tornato all'italiano, il giovane italiano che è tornato al gol dopo una lunga parentesi negativa. Il Crystal Palace è una squadra di seconda divisione inglese e tra l'altro di seconda metà della classifica, e stamane Ferguson si è ufficialmente scusato con i tifosi per la brutta figura della sua squadra. Vi dicevo della proiezione verso il campionato, perché domani sera è già Genoa-Milan. Allora sentiamo le due vigilie. Comincerei da Calaz, l'ex di lusso nelle file del Genoa, che si sofferma sulle possibilità di scudetto del Milan. Sì, va bene, comunque tutte le partite sono importanti, tutte, poi soprattutto quando giochi contro una grande squadra è normale che ce l'hai dentro una stima di più. Quando giochi, non lo so, con altre squadre magari ce l'hai un po' meno, questo è normale, tutti siamo così. Io dico che due squadre, Juventus e Milan, quelli che sono, possono vincere il campionato, quello che si vede fino adesso, io penso, quello che hanno dimostrato in campo. Poi contro Juventus Genoa ha fatto una grande gara, anzi anche secondo tempo alla fine potevamo anche vincerla, però va bene, è andata così, e adesso cercheremo di fare bene venerdì. Sul Calazza appunto parlava di duello Milan-Juve, perché ormai è questo che si, anzi Juve-Milan in ordine di classifica attuale, che si, è questo che si profila a questo punto della stagione, salvo sorpresa. Allora sentiamo che cosa ne pensa in questa vigilia di Genoa-Milan, che cosa ne pensa Allegri. E sta facendo cose importanti, perché noi nelle ultime 7 partite abbiamo fatto 6 vittorie e un pareggio, e loro credo che hanno fatto 4 punti in meno di noi, perché dopo la partita di Torino loro avevano 6 punti di vantaggio e ora siamo a 2, e quindi per noi era importante ridurre le distanze, l'abbiamo fatto, ora bisogna cercare di continuare e fare sempre il massimo, poi se loro vinceranno sempre noi possiamo prendere, altrimenti vedremo dove arriviamo, però il campionato è ancora lungo. Sul grande momento della Juventus si esibisce anche Cavie Zanetti, nonostante trattisi di rivale storico e nonostante sappiamo quali siano i rapporti più o meno a tutti i livelli tra Inter e Juventus, beh, diciamo che i più civili sono certamente quelli tra calciatori. Quindi sentiamo il capitano dell'Inter a proposito della Juve. Io credo che la Juve è prima in classifica perché lo merita, perché sta facendo molto bene e perché ha dimostrato di essere la più, in questo momento, la più continua. Noi dobbiamo cercare di recuperare il terreno, dopo la fine vedremo dove arriverà questa Inter. Lasciamo parlare la critica, noi ci dobbiamo concentrare partita dopo partita e cercare di vincere il più possibile. Dopo, ripeto, alla fine faremo i conti. Io credo che mancano tante partite, tutto può succedere, sappiamo che sarà molto difficile, che è complicato, però noi ci dobbiamo provare. Sì, provare per l'appunto, provare non vuol dire riuscirci, ma provare mi sembra che sia un dovere. Oh, tra poco mi raggiunge in studio Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, perché? Ma per una panoramica normativo-finanziaria molto ma molto interessante sul calcio di casa nostra e su alcuni episodi recenti, oppure anche meno recenti, ma che hanno trovato sviluppi abbastanza tra l'incredibile e l'increscioso proprio in questi giorni. Credo che, come spesso accade, perché in passato avete mostrato un discreto gradimento per questo genere di argomenti, di tematiche, credo che anche oggi andrà così. Torniamo allora in compagnia di Marco Bellinazzo. Marco, buongiorno. Ciao Gigi e buongiorno a tutti. Allora, qualche ascoltatore ricorderà, mi auguro, una vicenda che abbiamo raccontato pochi mesi fa, 2-3 direi, non di più, su una, secondo me, lodevolissima iniziativa da parte della SPAL. Avevamo in quell'occasione chiacchierato sia col, ce l'avevamo fatta illustrare sia dal presidente che dall'amministratore delegato ferrarese, cioè dello Spallini, su questa forma di autofinanziamento che la SPAL aveva individuato attraverso un impianto fotovoltaico, quindi una proiezione nel futuro, diciamo, tra l'altro in un futuro pulito, come forma di finanziamento, e ci ha spiegato il perché, il per come, l'iniziativa, come era nata, come mai, eccetera. È arrivata adesso una multa di 15.000 euro da parte della Commissione Disciplinare Nazionale per aver avviato un'attività commerciale finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, violando così quanto disposto dalla legge 91 del 1981. Allora Marco, dato che io faccio una fatica terribile a districarmi tra le pandette, no? Se una società dice: ma io, anziché, visto che non abbiamo, visto che le partite alla SPAL venderle in giro per il mondo si fa poi fatica, eccetera, no? Non siamo nel Milan né nel Barcellona, eccetera. Proviamo a finanziarci così, tra l'altro con energia pulita. In che problema regolamentare sono incappati questi? Beh Gigi, ci sono delle vicende come questa, apparentemente secondarie, che magari finiscono nei trafiletti dei giornali, che rivelano tutta l'arretratezza di un sistema. E questo, come dire, fa capire poi perché a valle si verificano tutta una serie di problemi, perché magari ci sono problemi economici relativi anche a squadre che non dovrebbero averli, perché il problema della SPAL si può come dire riportare anche a più alti livelli, anche alle squadre professionistiche, perché la legge 91 dell'81 riguarda appunto il professionismo sportivo. Ora, per andare al nocciolo della questione, questa legge fu fatta appunto 30 anni fa, impone alle società sportive di fare soltanto l'attività sportiva, oppure si dice attività connesse o strumentali, questo per citare proprio, sì, questo comma 2 dell'articolo 10. Oggi andiamo dettaglio tecnico, andiamo sui commi. Quindi in sostanza una società non può fare altro che quello per cui è nata, cioè l'attività sportiva e in questo caso calcistica. Secondo la commissione disciplinare, evidentemente creare un impianto fotovoltaico, affittarlo a terzi, avere un introito da questo, violerebbe e viola questa norma. Per cui la commissione disciplinare, tra l'altro ho letto il dispositivo con un certo rammarico, perché appunto si rende conto... Sì, guarda, leggiamolo, perché questa disciplinare presieduta da Sergio Artico rileva che la norma, pur se può sembrare obsoleta, è comunque tuttora vigente e finché non sarà modificata deve necessariamente essere rispettata. Cioè, in pratica Artico dice... Non era male la vostra idea, no? Sottinteso, non era male la vostra idea, purtroppo era forse in anticipo sui tempi. Ora, in anticipo sui tempi del calcio italiano, credo che non sia un problema esserlo, no? E quindi questa ricade sotto una sanzione. Hai fatto una sintesi perfetta. Però il problema è che ora bisogna, come dire, fare tutta una serie di valutazioni che possono venire alla mente. Per esempio, stamattina venendo in radio ragionavo sul fatto che qualche anno fa, forse qualcuno degli ascoltatori lo ricorderà, è nata la moda di affittare i marchi. In sostanza, sì, con operazioni finanziarie assolutamente legittime, se vogliamo, dal punto di vista economico, le società cedevano il marchio a un'altra società con degli introiti e una remunerazione, insomma. E mi chiedo a questo punto, la disciplinare dov'era quando sono state fatte queste operazioni, certo, che sono peraltro tuttora in corso e da parte di primarie società italiane, penso all'Inter, alla Roma. Ripeto, attività legittime dal punto di vista finanziario e note in tutto il mondo. Forme di autofinanziamento collaterale, come dire, a loro volta, però anche queste dovrebbero appunto scontrarsi con questa disposizione che era caduta nel dimenticatoio effettivamente. Però in quel caso, diciamo nel caso dei marchi, si sfrutta un bene cosiddetto intangibile e si cerca di averne un profitto per poi reinvestirlo nell'attività sportiva. Nel caso della SPAL si sfruttava un bene tangibile, cioè lo stadio, sul quale era stato costruito questo impianto. Mi chiedo appunto dove fosse la disciplinare e se come dire, applicare in maniera così rigorosa, sia pure con qualche dispiacere di fondo dei commissari, questo articolo alla SPAL sia stato più semplice che magari tirarlo fuori nei confronti di società dell'Inter, della Lazio, lo ricordo. Sì, è come se tu ci stai dicendo che ci sono dei brontosauri in piena regola in qualche ufficio misterioso, no? di questa organizzazione calcistica sportiva in generale, che ogni tanto sono in letargo e ogni tanto invece si svegliano. Poi per pura combinazione si svegliano sempre quando sono le piccole società. Beh, evidentemente. Ora io non so come sia andata esattamente la questione della SPAL, se ci sia stata magari la denuncia di qualche società, come dire, di categoria gelosa di questa iniziativa o altro, bisognerebbe farselo raccontare. Io noto soltanto che appunto nel caso specifico una iniziativa assolutamente lodevole e che può essere paragonata ad altre iniziative fatte in maniera molto più eclatante su altri piani e con beni diversi è stata bocciata, mentre quelle continuano a essere, diciamo, certo, autorizzate o comunque non ostacolate. Non che lo debbano essere, perché è assolutamente legittimo, ripeto, che queste società lo facciano, ed è, se vogliamo, l'unico strumento, cioè quello di fare attività anche collaterali per le società, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, per trovare ulteriori fonti di finanziamento. Lo fanno le big del calcio europeo e in questo caso, come dire, l'arretratezza del sistema italiano rispetto ad altre realtà si nota ancora di più. Certo. Possiamo citare i due casi più importanti, che sono quello del Real Madrid e quello dell'Arsenal. Ora, il Real Madrid qualche anno fa ha fatto un'azione immobiliare da oltre 400 milioni e ne ha fatto un'altra poche settimane fa, per cui tutta l'area attorno al Bernabéu, Florentino Perez è riuscito, come dire, a farla diventare di colpo edificabile, e c'è un progetto per un investimento di 200 milioni di euro che porterà sicuramente alla costruzione di altri grattacieli, centri commerciali, centri di ristorazione che finanzieranno, diciamo, le grandi spese del Real. La stessa operazione l'ha fatta l'Arsenal, il vecchio Highbury è stato buttato giù, sono stati costruiti diversi edifici, delle palazzine che sono state vendute, e questo ha garantito grandi fonti di finanziamento all'Arsenal. Ora non mi si dica che l'attività immobiliare più estranea all'oggetto sociale, all'attività sportiva, è quella di mettere un impianto fotovoltaico sullo stadio, insomma. Non ti si dica no, caro Marco, perché questo veramente è incomprensibile. E torniamo a una piccola società che si inventa qualcosa per autofinanziarsi e si inventa oltretutto energia pulita. Perché leggevo qualche giorno fa che ci sono forti sospetti che, nonostante i lavori di ristrutturazione durati 3 anni alla Scala di Milano, ci sia tuttora dell'amianto nella copertura. Ora, io non voglio chiedermi quanto amianto ci sia nelle tettoie o nei sottoscala degli stadi italiani, perché temo che l'agibilità degli stadi italiani verrebbe messa a repentaglio in molti, ma molti casi. Però su questo nessuno muove mezzo dito, nemmeno la curiosità, intendo dire. Ma se uno si sbaglia a Ferrara a dire adesso ci alziamo col fotovoltaico, mo ti sistemo io. Sempre per via del fatto che lo sport italiano guarda al futuro. Sentite quest'altra, che è dello stesso segno, nel senso che siamo sempre all'insensibilità delle regole e di chi applica soprattutto le regole, ma questa è molto molto più drammatica. Allora, succede che domenica 20 novembre, è una lettera inviata ieri da Antonio Sguinzi, presidente della società Freccia Azzurra di Gaggiano, inviata a Franco Arturi, alla Gazzetta dello Sport. Domenica 20 novembre, mentre la nostra squadra allievi disputava una partita, uno dei dirigenti in panchina, Sergio Gaudino, è morto in campo, stroncato da un infarto sotto gli occhi di suo figlio che stava giocando e della moglie che era tra il pubblico col figlio maggiore. Abbiamo ovviamente deciso subito di sospendere tutte le attività agonistiche previste per quel giorno, quindi una partita da juniores, in cui tra l'altro gioca l'altro figlio di questo sventurato, e il derby tra la nostra prima squadra e quella dell'Accademia Gaggiano. Sergio è scomparso poco prima delle 12 e noi siamo stati con i carabinieri e la famiglia sul campo fino alle 14. Cos'è successo? È successo che è arrivata una squalifica perché non l'autorità non era stata avvisata. Ora, per carità, a puri termini di regolamento andava notificato l'accaduto e la spiegazione della sospensione, ma che perché il regolamento è chiaro, non si può sospendere una partita, ma che però dopo che un caso del genere viene alla luce e dopo che si è in presenza della morte di un dirigente su un campo, alla presenza dei due figli e della moglie, leggere le parole di Carlo Tavecchio, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, nulla di personale ma molto di istituzionale, che dice: comprendiamo il dolore, non siamo insensibili di fronte a una tragedia e per questo rinnovo le condoglianze alla famiglia, ma il regolamento è chiaro, non si può sospendere arbitrariamente una partita senza informare la Lega e poi pretendere di non essere puniti. Non so, vorrei un commento tuo, perché se viene fuori il mio partono le querele per qualche anno. È difficilissimo commentare. Io penso che la sensibilità non abbia né se né ma, e la Lega Dilettanti avrebbe, come dire, fatto bene a non averceli e a non metterceli in questo comunicato, i se e i ma. Per il resto, voglio dire, la ferrea applicazione della legge poi in un paese come l'Italia fa un po' ridere in questi casi. Veramente pazzesco. Se fossi stato avvertito, ha detto il presidente del comitato lombardo Belloli, avrei fatto sospendere il match. Ammazza che. Invece ho ricevuto una telefonata da Sguinzi solo dopo la pubblicazione della decisione del giudice sportivo, e quindi. Vabbè, quindi è andata così, insomma. Non... Questo è un altro simpatico capitolo, no? Che dà un'idea, per l'appunto. Ripeto, vicende diversissime, altro è il fotovoltaico, altro è un investimento, altro è la morte sul campo di un dirigente. Ma l'insensibilità dei, non dei regolamenti, ma di chi i regolamenti deve applicare ed eventualmente si deve sforzare di aggiornarli, no? Mi pare. Assolutamente, ed è questo credo ora il grande tema che ha davanti il calcio italiano, cercare di aggiornarsi indipendentemente, come dire, da tavoli o tavolini. A proposito, ecco, e poi arriviamo ai tavoli e tavolini subito dopo avere aggiornato i mercati. Tempo di sport. Caro Marco, ci sono molti ascoltatori che chiedono, premono per intervenire su questi argomenti. Allora, prima di introdurre il tavolo, sentiamone magari qualcuno, se sei d'accordo. Matteo Ferrara, per esempio, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno al suo ospite. Dica. A parte che sono di Ferrara, ma della Spal avete già detto tutto voi. Sono rimasto molto allibito alla notizia che la Lega ha preso un provvedimento contro la società dove purtroppo è deceduto un dirigente, e ricordo che di recente ci sono stati due episodi dolorosamente analoghi, uno quando è morto Simoncelli in cui tutti i piloti hanno deciso di non correre, il secondo durante la Fiera Cavalli di Verona dove è morto sul campo un cavallo e tutti i cavalieri hanno deciso di sospendere la gara. Volevo solo dire questo. Lei vuol dire che addirittura dove lo spettacolo dovrebbe continuare, no? Secondo il famoso assioma, celeberrimo, addirittura si sospende quel genere di spettacolo. Qua invece, dove non c'era, non è spettacolo quello, perché quello è passatempo, è tempo libero, è salute, è crescita giovanile, è tutto quello che vogliamo, ma non è spettacolo. E divertimento, invece succedono queste cose. Lei dice di Ferrara abbiamo già detto tutto, ma Dimitri di Ferrara mi ricorda invece una cosa che era emersa quel giorno che avevamo parlato con presidente e AD dell'iniziativa del fotovoltaico, perché a Ferrara quell'impianto era stato costruito dopo la bonifica dopo la bonifica di una ex discarica, quindi era anche una bonifica territoriale in piena regola e una proiezione dal passato al futuro, per l'appunto. Piero ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno, la cosa mi ha toccato abbastanza l'argomento di quel sventurato che è morto, nel senso che io sono stato un dirigente di una società di calcio molti anni fa e sentire ancora, che esistono certi dirigenti che esistevano già allora, parlo del signor Tavecchio, io rabbrividisco, voglio dire, questo dimostra che se non cambiano le persone anche le regole non potranno mai cambiare. La domanda è questa, siccome non l'ho sentita, ma il fatto è stato segnalato all'arbitro, quindi l'arbitro l'ha notificato l'avvenuto, perché se è stato notificato non potevano neanche prendere provvedimenti, a mio parere. Ma guardi, io non so se è stato notificato o meno, io so che c'era il referto arbitrale, voglio dire, ecco. C'era il signor Sergio Gaudino che, anche per ragioni di accertamenti di legge, è morto verso mezzogiorno, stroncato da un infarto su questa panchina. Per due ore è rimasto lì, per ovvie ragioni di accertamenti, per gli adempimenti che in questi casi drammatici sono ineludibili, ed è rimasto lì con, ripeto, moglie e i due figli, uno che giocava e uno che stava in tribuna con la madre, in campo. Poi che ci fosse un arbitro, che non ci fosse l'arbitro, che sia stato avvisato, non avvisato, ma non ce n'è d'avanzo, voglio dire. Arriviamo al tavolo, caro Marco. Beh, vedi Gigi, finora abbiamo parlato di due casi veramente incresciosi, come li hai definiti tu all'inizio di questa trasmissione, perché c'è stata un'applicazione ferrea di determinate regole, ci sono state appunto pronunce della commissione disciplinare. Ora il calcio italiano si vedrà intorno a un tavolo proprio perché ci sono delle sentenze o delle regole che non piacciono e che bisogna cambiare. Sì. E questo ti fa capire come evidentemente c'è un doppiopesismo nella gestione, della gestione del calcio, che rischia davvero di rovinare tutto. Questo tavolo non c'è bisogno, insomma, che lo presentiamo noi, se ne è parlato fin troppo in questi giorni. 14 dicembre si vedranno alcuni presidenti, gli altri tra l'altro hanno già protestato. Cellino sta raccogliendo delle firme, invieranno una lettera perché sono stati esclusi, insomma faranno un tavolone, non so cosa faranno al CONI. CONI che ha già i suoi problemi con tutti i tagli che dovrà apportare, seri, no? Tra parentesi, perché i tagli che il governo necessariamente ha dovuto fare nei confronti dello sport. È chiaro, però parliamo di tagli del 20% spalmati più o meno su tutte le federazioni. Il calcio perderà circa 16 milioni per un risparmio di complessivi 40 milioni nell'anno dell'Olimpiade. Io credo, insomma, considerando la situazione complessiva, siano comprensibili, ma evidentemente forse i risparmi potevano essere fatti negli anni passati dallo sport italiano, sì, e non doversi trovare nell'anno dell'Olimpiade a caderli sopra, andare a batterli. Esattamente, cioè, vedremo se questo porterà il 20% di medaglie in meno, insomma, sempre ovviamente puntando molto anche sul ritorno economico d'immagine che hanno le Olimpiadi e l'importanza dello sport naturalmente anche dal punto di vista economico. Tornando al tavolo, ci sono tanti temi. La mia preoccupazione è che si faccia una discussione rivolta al passato, perché per questo è nato. È inutile nascondersi dietro dichiarazioni. Beh, già lo risolvesse questo, non lo risolvesse perché è irresolubile, ma già lo chiudesse questo passato, già ci mettesse la pietra su in questo caso, dato che è amianto puro, in quel caso questa bonifica già sarebbe qualcosa. Sarebbe qualcosa, ma soltanto il fatto di andare a discutere, di riunirsi in un momento così delicato, con tante questioni invece da affrontare, sì, e da risolvere, e perdere tempo e parlare di uno scudetto di 5 anni fa, 6 anni fa, tra l'altro sì, con una situazione, voglio dire, giuridica più o meno definita, che piaccia o non piaccia, è quella. Non si possono, come dire, sovvertire dal punto di vista politico decisioni magari della giustizia sportiva già definitive o altre della giustizia ordinaria che sono di primo grado, ma che sono arrivate. Che sono arrivate, certo, perché non piacciono, al di là ora delle dispute. Io credo che tutte le società abbiano invece l'interesse ad andare a discutere di una, come dire, riforma strutturale del calcio italiano. Tra l'altro, prima che il governo cadesse era stato, mi pare, convocato un tavolo, non so se hanno fatto qualche riunione, insomma, con Gianni Letta, e doveva in qualche modo fare la regia, perché appunto gli argomenti sono tanti, a partire per esempio dalla riforma di questa legge 91 dell'81, che dovrebbe cambiare lo status delle società e che potrebbe per esempio impedire che si verifichino casi o situazioni come quelle della SPAL, ma non è il solo tema sul tappeto. Gli stadi, vogliamo parlare degli stadi, 2 anni e passa persi dietro a una legge che di fatto non è stata poi approvata definitivamente soltanto in un ramo del Parlamento, perché c'è qualcuno che ha tentato di fare ben oltre quello che magari ha fatto il Real Madrid con la città, certo, sportiva, quindi cercando di fare speculazioni che evidentemente andavano oltre quello che in Italia è già accettabile, ma si è persa un'occasione storica. L'Italia ha perso per 2 volte la possibilità di candidarsi agli europei. Ora si parla appunto di una candidatura alle Olimpiadi del 2020, ma con questi chiari di luna mi sa che, insomma, è meglio rinunciare e dedicarsi alle cose interne, agli affari interni. Credo proprio anch'io. Senti, però ci sono invece dei tavolini che vengono convocati per riforme strutturali, per riforme regolamentari, cioè il fotovoltaico no, le morti sul campo dei dirigenti nemmeno, queste continuano a soggiacere, no, alle antiche regole scritte e immutabili. Ma se invece però viene toccato qualche mamma santissima, forse qualcosa si può fare, o sbaglio? Beh, la Lega in 448, mentre ha litigato per quasi un anno sui diritti TV e per tantissimo tempo sul contratto collettivo, ha velocemente, come dire, chiesto al CONI di modificare questa famosa norma, l'articolo 22 del NOIF, il 22 bis, appunto perché la condanna di Caccio di Calciopoli avrebbe impedito, impedirebbe a Lotito di svolgere completamente, Lotito e anche altri, qualche altro dirigente, insomma a seconda dei ruoli che hanno, di svolgere le sue funzioni, perché c'è questa norma, si dice arretrata, che sostanzialmente sospende dall'attività già al primo grado di giudizio, mentre occorrerebbe, voglio dire, una sentenza definitiva. Se vogliamo, è una riforma anche giusta, un aggiustamento in corsa. Però, ripeto, però dato che erano giuste anche, sarebbero giuste anche le altre riforme, non si capisce bene perché questa deve avere la consiglia preferenziale e le altre no. E le altre no. Tant'è vero che Petrucci appunto si è arrabbiato, ha convocato quest'altro tavolo, ma mi sa che gli sta sfuggendo un po' di mano la situazione, perché tra autoconvocati, gente che vuole partecipare e argomenti che si affastellano, ne uscirà, credo, una grande confusione, insomma, considerando che ce n'è già tanta, non se ne vede proprio la necessità. Vedremo, speriamo che invece, insomma, come dire, lo sviluppo sia più armonico e che invece di parlare con gli occhi che puntano al passato si punti, insomma, un po' si provi ogni tanto a proiettare anche a risolvere i problemi che il calcio italiano ha. Abbiamo ancora qualche ascoltatore che ci chiede di intervenire su questi argomenti. Il ripasso della storia attraverso la data del 1 dicembre con Nicola Filippone. Sembra ieri. 1 dicembre 1946. È un'Italia di transizione quella che batte in amichevole a San Siro l'Austria per 3-2. Vittorio Pozzo schiera tra gli altri gli emergenti torinisti Castigliano, Grezzar, Maroso e Valentino Mazzola, insieme ai senatori Biavati, Rava, all'ultima apparizione in azzurro, e Piola. Ma più che per i gol di Castigliano, Mazzola e Piola, la partita rimarrà impressa per la prima rovesciata di Carlo Parola, di cui riferiscono le cronache. Il centromediano della Juventus si esibisce nel sontuoso gesto atletico in difesa per non farsi scavalcare dal pallone che sarebbe arrivato al centravanti austriaco Epp. La rovesciata diventerà la specialità di Parola, immortalata in una foto leggendaria che risale a un Fiorentina-Juventus del 1950. Bravo Nicola, questa è veramente la ricostruzione, l'antefatto di un'immagine che segnò un'epoca, perché le rovesciate di Carlo Parola erano una delle iconografie del calcio del dopoguerra, poi durata per un sacco di anni peraltro. Daniele ha chiamato da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno a lei. Io circa 20 anni fa facevo l'arbitro di calcio in una terza categoria nell'Alta Padovana. Mi è successo un gravissimo infortunio di un giocatore durante la partita e ho sospeso con l'accordo di tutti, perché non c'era lo stato d'animo per poter proseguire e per un motivo di buonsenso. Ma infortunio di gioco o malore? No, un malore. La cosa poi si è risolta, ho saputo dopo, però mentre al momento eravamo tutti d'accordo e sereni nel sospendere, no? Visto l'accaduto, poi la squadra che si trovava in vantaggio ha chiesto al giudice sportivo di poter omologare il risultato del momento, perché l'arbitro ha sospeso, secondo loro, sbagliando, che comunque non era sereno, mi sta venendo un commento, come dire, discretamente istintivo. Senta Daniele, di che categoria stiamo parlando? No, terza categoria. Ecco. E quindi così, anni dopo, circa 10 anni dopo, un fatto analogo, in memoria dell'esperienza ho dovuto richiedere uno scritto a entrambe le società, certo. Perché dopo, per non essere come la prima volta chiamato dal giudice sportivo a dover giustificare una volta di più il motivo della sospensione della gara. Terza categoria. Solo questo, non è pochissimo, Daniele. Grazie comunque, perché è giusto che ripassiamo i fondamentali, no Marco? Ogni tanto. Sì, c'è un problema evidentemente culturale, e forse farebbe bene il CONI, come dire, investire più nel rapporto con la scuola. Ieri c'è stato un incontro con il nuovo ministro dell'istruzione. Insegnare cos'è lo sport prima che... Sì. Che si arrivi a questi episodi, insomma, sì, sarebbe il caso. Sì, perché lo sport, io l'ho sempre interpretato, per lo sport giovanile, qui eravamo già in terza categoria, quindi ci ho giocato anch'io in terza categoria, non sono i bali dei debuttanti, le orsoline sono altrove. Però, insomma, se no sarebbe bello poter interpretare lo sport, soprattutto giovanile, dicevo, come una sorta di educazione civica, no? Un modo per far crescere i ragazzi e per abituarli alla vita di relazione, di rapporti, di rispetto delle regole, anche di fair play, anche di educazione. Buonasera. Giuseppe, provincia di Fermo, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. Io volevo intervenire a proposito della paradossale vicenda dell'impianto fotovoltaico. Sì. Perché mi sembra molto strano, siccome il quarto conto energia per il miglioramento della classe, classe energetica degli edifici prevede tutta una serie di premi, per cui poi dopo chi è padrone di un tetto e ha la fortuna di poter avere quell'introito lì si ritrova a prendere delle cifre anche piuttosto sostanziose. Ora, siccome noi in Italia abbiamo tutta una serie di campi, soprattutto io frequento molto il sud per lavoro, ci sono tutta una serie di impianti sportivi che hanno coperture in amianto, addirittura con i premi che prevede il quarto conto energia, a parte l'incentivo per la produzione di energia elettrica, veramente si potrebbero avere delle cifre a disposizione molto interessanti per rimodernare gli impianti, senza assolutamente gravare sul bilancio delle società sportive. In un'ottica di fair play finanziario, avere un qualcosa che ti porta degli introiti, perché un impianto fotovoltaico di fatto è un assegno circolare, perché comunque dà diritto a una rendita ventennale, ma non solo, io penso anche all'autoconsumo delle società sportive all'interno di quegli impianti. No, no, d'accordo. Cioè, praticamente piove sul bagnato, perché non solo prendi l'incentivo, ma non compri neanche più la corrente elettrica. Vabbè, ma adesso non è necessario un promo. È troppo ragionevole questo discorso. Ma quello che dice lei è troppo ragionevole. È troppo ragionevole in rapporto alla legge 91 del 1981. No, che viene invocata appunto dal giudice sportivo, dalla commissione disciplinare, e nell'81 credo che la parola fotovoltaico non avesse alcun significato ancora, no? Immagino di no, ma qui si sta parlando di qualsiasi attività che, come dire, non sia strumentale all'attività sportiva. Io ti ho fatto l'esempio all'inizio della trasmissione dello sfruttamento dei marchi, per dire che anche quello non rientrerebbe in questo contesto, eppure quello è stato lasciato passare, evidentemente la SPAL stava antipatica a qualcuno. Sai dove mi pare che la Lega, insomma, adesso mi viene in mente la Lega, ma insomma, dove sono particolarmente ferrati i nostri dirigenti? Sui diritti TV. Mi pare che se la stia cavando meglio, in effetti. Sui diritti TV, l'ultimo tassello, quello dei diritti venduti all'estero, è stato perfezionato. Produrranno 114 milioni per il 2012-2013, 117 per l'anno successivo e poi 120 rispetto ai 90-100 di adesso, insomma un bel incremento ed è sostanzioso. Sta di fatto però che rispetto per esempio alla Premier League, che incassa dai 300 ai 400 milioni all'anno per la vendita dei diritti TV all'estero, siamo ancora un po' lontano, non siamo al 10% del fatturato. Un segnale comunque di un appeal sempre meno vigoroso del calcio italiano negli altri paesi. Quello che è stato fatto in Cina con la Supercoppa è un inizio, insomma, per invertire questo trend. Vediamo se riusciamo a dare spazio ancora a Gabriele, che ha chiamato da Roma. Buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Dopo avervi fatto i complimenti per come trattate i temi dello sport italiano nella vostra trasmissione, volevo sapere una vostra opinione, dei vostri esperti, su una mia esperienza personale. Io ho un figlio che frequenta le scuole medie qui a Roma e ha avuto dei progetti scolastici nel calcio con degli istruttori che sono andati a sensibilizzare la sua classe insieme a dei calciatori sia della Roma che della Lazio qui a Roma. Volevo sapere come giudicate questi, diciamo, interventi misti sport-istruzione, fatti non da degli esperti, diciamo, proprio dell'istruzione, ma da degli istruttori che spesso diciamo, portano questi ragazzi a pensare poco all'aspetto sportivo e molto di più all'aspetto, diciamo, agonistico. Gabriele, come me la mette lei, non mi pare una di quelle iniziative. Per carità, tutte le iniziative sono lodevoli. Qui mi sembra che ci sia un pizzico di qualcosa che potrei anche chiamare demagogia, da come lei me l'ha presentata. Sentiamo Marco. Beh, se non si tratta, come dire, di operazioni di puro marketing, ma che puntano realmente a creare un circuito virtuoso tra la scuola e lo sport nell'ottica che abbiamo detto, naturalmente sarebbero iniziative non solo da apprezzare, da motivare e incentivare. Io, Gigi, ho sempre un'immagine bellissima, un viaggio che ho fatto negli Stati Uniti, e la prima volta che sono arrivato ho trovato un campo, prati sterminati e centinaia di migliaia di bambini e bambine che giocavano a calcio. Ecco, vorrei rivedere una scena simile anche in Italia. Questo credo che sarebbe un non dico sì, forse un sogno, ma in ogni caso un traguardo a cui tendere, no? Un pochino per tutti noi. Allora, grazie a tutti gli intervenuti, grazie a Marco Berinazzo, evidentemente, per la sua partecipazione, a Carmelo Lauricella che ha curato la regia e la parte tecnica, a Franco Piantanide in redazione. Buon pomeriggio.